Chi c'è qua? Chi è? Antonio Songo. Ciao Antonio, buonasera. Ciao mio profeta da questa parte. Tutto a posto? Tutto a posto, Gianni mio profeta, buonasera. Adesso da un po' si è entrato l'altro giorno. Sempre la boomerang, sai. E allora? Sì, se era piegata, insomma, poi l'avevo smontata, messa da parte e l'altro giorno ho deciso di metterla a posto e l'ho rimessa su, dai. Ero fermo un po' da un po' di tempo, sia la radio che tutto il resto, dai. Chi c'è antenna a far ridere? Si piega, si riguardi. La torre a punire a punto dovrà funzionare. Meglio di prima. Ehi, tanto già va bene. Tanto non mi interessa. Non mi interessa fare altro, dai. Già ce n'è per i polsi, dai. Non ho ambizioni di andare chissà dove. Ma vabbè, io ho messo la 50 qui, la GPS Sirio, che è la più seria che c'è in giro. Ce l'hanno in molti, ce l'hanno e io ce l'ho già un anno sul tetto. È sempre una bomba, sempre perfetta. Già la conosco. Ho visto quella e qualcun'altra tempo fa che mi aveva consigliato Marco Condor, però vabbè, va bene questa, finché regge mi tengo questa, da bui bui vedimo, non c'ho altre cose a cui pensare. Vabbè, comunque sia è una buona 5 ottavi, è una veramente una buona 5 ottavi, perché non pensavo neanche io. Andava, va bene, dai, ho acceso giusto per vedere se testava, funzionava tutto ok, e mi sembra di sì. La pausa che me la sono tenuta, no cavolo, la prima l'ha più venduta, la seconda me l'ho messa in magazzino, non si sa mai, la boomerang. Ok, quindi una te l'hai tenuta, giusto? No, ho deciso di non venderla più. Tienitela magari come muletto, te la tieni di scorta, non sia mai che magari cosa ne so. Succede un imprevisto, c'hai già l'antenna pronta. Sì. Me la tengo così, non li vendo più, anche perché questa cosa costa quasi 60 euro, questa antenna, non è che costa poco neanche, no? Se non aumenta da burro. Ma quale? La boomerang, quella della LEM o quella della Sirio, Anto? Quella della LEM. Io ho quella grande, quella 2,75 m. Quella costa moltissimo, cioè l'avevo pagata da Fusaro l'ultima volta per 60 euro, ha detto non ne vendo più, ed è l'unica antenna dal balcone che se vuoi sparare qualcosa, se vuoi arrivare, è l'unica antenna dal balcone che funziona. Eia, vabbè, io gli ho fatto un accrocchio, l'innesto a metà perché ha saltato il coso in ottone, si era frasecato, e gli ho fatto un accrocchio alla MacGyver, mi sembra che stia funzionando. Vabbè, dai, andiamo così, cosa vuoi ti dica? Via. Dai, faccio un altro paio di passaggi e poi mi assento che devo finire della roba che ho iniziato, se no non li puoi cubire. E niente, dai, un altro paio di passaggi e poi ti lascio. Va bene, dai, ok. Ma questo è un bel forse in occhio, la più dolce. Cappa. Sì. Ok, dai. Dopo non ho sentito nessuno, ce l'ho già acceso, ce l'ho un bel po', non ha sentito nessuno. Magari tra un po' scabussa qualcuno. Sì, vabbè, l'altra notte ce l'ho vista. Come goduto. C'ho campo libero per la tenoce, a voglia. A parte tutto il golfo della Sinana, Busso d'Orla e compagnia cantata, sì, ma la tenoce proprio ce l'ho dritto qua, sulla mia destra. Vedo tutto a occhiometro. Zappa, si può con la 50 vivi qua, Cioè, una bella zona, eh? Adesso va bene così. Va bene così. Mi ascolti bene, sì, Antonio, il segnale com'è, buono? Ce n'è la fondoscala. E la radio com'è? Limpida o... Oh, yeah. Bella radio, una bomba. Bella forte. Bene, Meda. Dai, Antonio, vado a... Devo sistemarmi dei cavi, ho preso gli spinotti e... Mi devo sistemare dei cavi, sennò no, mi rimbassa la gana e la goduto così. Dai, casomai appena finisco provo a rientrare, d'accordo? Sì, puoi fare il tuo problema. Andate, dai, andate voi, ciao. Ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Il Q10. Vente mala. E cosa vai tu? Abbiamo ribanzo, sì. Prova. La macchina prova. Ti sento basso, sto provando l'apparecchio. E anche tu sei basso, me. Dove sei? Sono, sto provando. Io sono a Sassari. Adesso come mi senti? Santiago è basso, allora c'è l'ultima 5, dai. Break. Santiago sì. Adesso come va? Sto provando. Sempre Santiago sì. La radio buona. Cosa sei, in FM o AM? In AM siamo. Sto provando un 48 a vedere come esce. Cos'è, un Alan 48? Sì, Alan 48. Già va bene, dai. Aspetta che attacco l'altro e vediamo come mi senti. Va bene. Che radio brutta. Male si sente, perché? Quanto è trombarato. Ma è meglio prima o adesso? Questo è un altro Alan. Questo va meglio del prima. Che sei? La vacca sul corpo. Ti so che sei cocchi. Scusate, bambino, ha toccato il microfono. Chi sei, Roberto? Antonio sono. Io sono pirata. Ma chi sei? Davide. Oh, ciao Davide. Aiuto. Che mio figlio ha toccato il microfono e si sentiva tutto. Come sta uscendo che sto provando l'apparecchio? Ti sento bene, ti sento. La cascia. Ma Mario, sei Frettucci. Chi Davide sei? Ora. Pirata. Ah, pirata. Ma dove moduli? Non ti ho mai sentito. Non ho capito. Ma dove stai chiamando? Da Marrizza. Se ho un segnale buono, un segnale di nuovo per Radio 5. Ah, che non è ammarrizzato, ciao. Ciao, e andi è? A me che ammarrizza, io sono negativo, raga, per sì. Cazzo, l'ha detto che da su sono ammarrizza, ma che lo sa. Capo, avanti già. Ciao Antonio, ciao tutti quanti gli amici, dai. Buonasera. Buonasera a te. Cosa ne c'è un die? Sta arrivando 9 qualcosa qua. Stavo per chiamarti, Antonio, ho sentito Gabriele al baracchino. Me l'ho immaginato che era lui. Ero nell'altra stanza e si può capabilizzare forse, mamma mia. Scusate così. È una scena, E tanto usa trattare il baracchino. Cosa vuoi fare? Rimani ma te ci metti. Era provvidente, cioè, la Edo, secondo Edo. Mamma mia. Oi, oi, oi. Lo faceva anche Marco, che era amico, dove? Da Sorso, un amico. Sì, da Sorso, sto provando l'apparecchio. E qua arrivi bene, eh. Arrivi abbastanza bene, una radio normale, però arrivi bene. Meglio, meglio, sto vedendo come fanno funzionare. Stai ripristinando una vecchia stazione? Sì, sì. Ah, cappa, e che antenna hai messo? Una fotocopia di Ramato fa l'antenna, eh. Ah, la fotocopia l'hai fatto. Cos'è, una REM, cos'è? System Guy. Mister Guy. System. Oh, no, non so che antenna sia. E di che casa è? Di casa mia. Di casa tua. La ditta qual è? Non lo so, una ditta estera, ho comprata online e l'ho attaccata a provare perché l'altra era rotta. Parla così vicino al microfono che ti sento ancora più forte. Anto. Perché come mi senti? Oh, già ti sento bene, se avvicini bene al microfono ti ascolto bene, se no se la lontani ci sento più basso. Lo dovresti avvicinare di più alla bocca di modo che ti senta più bene. Ok, tu che apparecchio c'hai? Così mi organizzo anche la stazione, la rinnovo. Io c'ho un Magnum, un Galaxy Saturn Echo e poi c'ho anche un Noise. Con quale stai trasmettendo adesso? Con Magnum. Ti sento bene, ti sento. Meglio così, dai. E io ce l'ho già sul tetto lo stesso, dai. È una REM. Di dove sei? Dove stai trasmettendo? L'avevo sentito poco fa. Da Sassari. Anch'io Sassari, zona Latte Dolce. E amore, confronto ti sento bene. Cappa cappa. E vuol dire che l'antenna va bene, dai. Poi magari più in là, se ti prende bene di nuovo la passione, ti metti un microfono amplificato, se la grande. Allora, l'antenna è una Sirio Game Master. 5 ottavi. Ah, la Game Master c'hai. Ho capito. E l'ho avuta anche io, quella lì, mi si è troncata col vento. È copiata? Sì, sì, ho copiata, che sto parlando. Magari si è piazzata male, non lo so. Però il vento me l'ha rotta 2 volte. L'ho rotta la prima volta, l'ho aggiustata, l'ho rimessa. E poi me l'ha rotta la seconda volta. Ho detto, basta, adesso la tolgo e non rimango più. Perché ho visto che col vento oscillano molto. Io la stavo guardando avanti ieri e stavo a me oscillando. Ma è una gara da pesca che hanno bisogno di... che hanno bisogno di un'altra da 4 chie. Un po'... già, come si... ma c'è la Game Master, c'è. È un po' troppo oscilla. Mi ha trovato attenti con le fascette. Lo sai cos'è? Quelle antenne, secondo me, dovrebbero essere legate in punta, di modo che oscilla di meno, le tiranti in lenza grossa, di modo che fanno oscillare di meno, perché se no, se in zona di mare, come ero io che vedevo il mare, il maestrale mi prende in pieno a me, ti vanno ad oscillare, ui. Sì, è vero, infatti adesso mi organizzo qualche tirante e vediamo un po' se rimane più ferma. Cioè, oscillare deve oscillare, ma non troppo, capito? Bisogna mettere qualche tirante, però non li devi mettere parti in ferro, capito? Sopra, allora, parti in ferro sopra la carica che ha, non li devi mettere. devi mettere qualche cosa tipo fascette, roba del genere per metterli tirati, perché se no si crea spazio orario. Questa c'ha i manicotti di giunzione, la vedo un pochettino più rigida, ma flette lo stesso. Sì, ma se flette di meno, io per dire ho la LEM e con il vento flette, ma non così eccessivamente come la Game Master, manca un paragone. Io sono arrivato già su Saga, non la vedi. Come vedi se così? Che è venuto quello della mansarda a dirmi, già mica l'antenna si sta muovendo molto lì, eh? E nel tempo si deve muovere, con l'antenna lavora così. Ah, perché stavo, avevo paura che si troncasse, cazzo, mambucci. Non gira in te nessuno, tira che è dura. No, aspetta un attimino, se tu prendi un'antenna in acciaio è diversa, quella lì l'antenna è buona, ma la struttura non serve a nulla, capito? L'antenna è buona, quello che c'è all'interno riceve, trasmette bene, tutto quanto, ma quello, la cosa esterna, il materiale esterno non serve a nulla, il sole la vetrifica e poi la fa spaccare. Ragione c'hai, adesso vediamo come sistemarla più avanti. Magari la rinforzi, le aggiunture la devi rinforzare bene. Li puoi mettere un tubo di quelli in plastica per rinforzare e poi dove ci sono le aggiunture li metti un pezzo di tubo di quelli che si usano per l'edilizia anche. Praticamente li metti un tubo così più fino, sempre più fino, sino a fare tutte le aggiunture di modo che la rende più meno flessibile, capito? Questa è la seconda versione con i manicotti, quindi dovrebbe essere un aggiornamento e flettere di meno, però già fletta lo stesso. Ah, è una nuova versione questa? Sì, è una nuova versione, l'ho messa un mese e mezzo. Molto l'hai pagata? 150 euro l'ho presa dalla fabbrica. Quanto? 150. Non è pagata molto, dai. Io l'ho pagata di più. Oh, yeah. Vabbè. Comunque io quando l'ho presa erano le prime, magari le hanno fatto degli aggiornamenti per non rompersi, perché avevano qualcosa che tutti mettevano anche nei forum che si rompevano eccetera, quindi per evitare di non vendere hanno cercato di modificarle. Avanti Antu. Cappa, è un po' troppo caruccia per essere, cioè, costa un po' troppo questa. Cioè, per quello cazzo di comprare la mia che sono sicuro che va bene. Ma se uno risolve l'antenna senza radiali, perché magari ha problemi di spazio, quella lì è l'ideale, capito? Ma la mia non è che c'è tutti questi radiali lunghi, no, la mia sono corti, sono. Lo so, ma non so che sono corti. Però ci sono dei posti dove non puoi mettere il radiale. O ti dicono cosa per l'estetica, cosa dei radiali. Ci sono tante cose che magari uno la deve infilare in uno spazio che i radiali non ci stanno e mette quella, capito? Daniele, quando abitava via l'Italia, mi ricordo che aveva messo la mano, ma no, i radiali non ci stanno, gli ha dovuto togliere i due, perché toccavano. No, poi aveva messo quella come la mia, perché no, andava molto meglio. La mia ne ha tre, ne ha. Avanti Sorso, ma come ti chiami di nominativo? Non so come chiamarti. Sorso! Sono qua, stavo ascoltando a voi, la mia antenna è messa al fianco del muro, i radiali non ci possono mettere. Vedi, ascolta, come ti chiami di nominativo, che non so come chiamarti? Pirata. Pirata? Yes. Pirata Barbanera. Ancora è niente, quando gioco più vecchio sarà bianca. Ah, Lucia. E vabbè, adesso ti avvicina. Avanti, Antu. Sì. Vabbè, se non ci possono mettere... Pirata. Ci metti quella, ciccia. Però io, siccome già avevo tutto il posto che volevo, mi ho messo quella lì. E va. là alla grande. Non l'ho pagata molto, non l'ho pagata molto e sono contento. Ancora in Kiwi, poi ci vorrà. Oggi al topi se con Cucano l'ho poppato, mi sono svegliato alle 6, oggi andrò un mindaga. Vuol dire che ero stanco? Stanco ero, ieri ero proprio a pizzini, ieri ero molto stanco, facendo quel lavoro, l'ho freddo, ho giubilato, mi di freddo, mi faceva male tutta la scina. Infatti devo mettere un altro di filo perché non è abbassato il cordone. Ci vado domani dopo pranzo che c'è il sole, sperando che faccia bella giornata e non termino là. Anche avete già finito? Perché non sei più abituato a fare lavori poi. Non dico che ti chiedi ma. Come non sono abituato, è un buccio di luce che ci vidi, l'ho messo a casa, li ho messi a casa di mia cugina, no, le ho fatte un bel di volte quei lavori, solo che non avevo tutta l'attrezzatura lì, capito? E ho dovuto usare le pinze per stringere i borsetti, perché non c'erano chiavi, se lo sapevo mi portavo le chiavi, pensavo che ne avesse. Quando mai verrà? Cosa? Ma va, ma quando mai verrà il chiavi? Bisogna sempre portarsi le cose appresso. Vabbè. Già mi sono arrangiato lo stesso, ci ho messo un po' di più, però mi sono arrangiato. Con la chiave l'avrei fatto in due secondi a stringere i morsetti. Una minza di questa aprendo, chiudendo, facendo, ui. E poi quando è lontano l'ultimo è proprio, cazzo, è molto lontano l'ultimo, è. Meno male che ho le braccia lunghe io. Se non vado gli attrezzi giù che ci metti 3 ore a fare quel lavoro, almeno è meglio andare a casa a prendere le cose giuste, perché poi ti stanchi di più. Vabbè, certo. E vabbè, infatti guarda, ne manca uno solo di capo, un capo dei tirati che c'avevo io, anche se non è verde, con il disegno verde e col disegno azzurro, ma è davvero la stessa. E cosa di quei buchi? Io ce l'ho anch'io, ce l'ho, ma è un bel grosso quello che ho io. Perché tu i tiranti, come li hai messi, sono ben grossi? Sì, uno è un bel grosso, ma... Ah, io gli ho messo quelli normali che si usano per stendere. Quelli normali, ma gli ho messo 9 di tiranti. Se non si muovono in marco, si mette a gogo. Niente, tutto nulla, il palo non si muove. Ma non è che quella mia, ma manco male idea. Vabbè, la tua è più in basso, la mia cazzo c'ha... sono 4, 5 piani, sono 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono 12 metri di altezza più 7 metri di antenna più 5 metri di palo, non ti guasto. Non mi ricordo quanto mi ha messo, ma si difende bene di altezza, no, non ti credo che si abbassano. Non mi ricordo che se si alza, la teva 4 metri, non mi ricordo. No, non mi lamento a quanto è sul baro, però piace di farla bene. E le staffe come le avete attaccate a trasello? Le pitrate di lavoro, quelle belle prepotenti. Con le staffe? Sì, le staffe, sono quelle belle grosse. Quindi avete bucato il muro? Sì. Baguette. No, io gli ho messo quelle col tassello normale, con tasselli da 14. Non mi ricordo male, mi pare che sia pure quello, sono da 14, sono da 16 quelle che ho messo io. Cazzo, se non me lo ricordo, è passato un po' di tempo. Comunque sono ben grossi, so. Avanti, la vecchia. Com'è che si chiamava? Corsaro? No, Corsaro Nero, beh, pirata, beh. Ah, pirata, adesso mi stavo confondendo. Tra Corsaro e pirati sono quasi uguali, dai. E tu come te le buci le staffe murate? con i tasselli. Con i tasselli chimici. No, no, tasselli abbullonati, tasselli da 8, o da 10 più o meno. No, io da 14. Ho dovuto usare il cango perché il trapano, quello che c'ho io a percussione, non ci stavano le punte da 14 e ho dovuto usare il cango. Perché quei tasselli lì ci vuole il tascellatore, ci vuole con le altre punte. Vabbè, comunque, io ce l'ho già un bel po' di anni, vero? Anzi, 2 o 3 anni ce l'ho. Sì, sì. Ma no, no, ma... Ma l'ha già avuto di antenne, ma carindai. Bisogna metterne una come si deve, ma l'amanto mi ha durato un po' di anni. L'amanto ce l'avevo un po' di anni. Scappa. Comunque ho messo delle staffe molto grosse, cavolo, non me ne ha messo, beh, non me lo ricordo perché è passato un po' di tempo. Era di massicci proprio. Sì, ma io l'ho fatto anche una cosa, prima di entrarci il tassello gli ho buttato il silicone dentro e poi gli ho filato il tassello a forza e l'ho stretto. Quando l'ho stretto il silicone si è andato dai lati e ha proprio fatto da guarnizione, capito? Dice che avevo buccio, è entrato dentro la dammazzetta a muro, perché no, è un bel grosso. Io penso che chissà non si muggeranno mai, perché sono belle robuste. Oh, si rimbocciata lo muro, ma non si sa che chissà. Vabbè, solo che se viene una di chissà tempesta, che cazzo, quelle lì fanno con la vittizia di giusto. Ragazzi, io vi saluto, a domani. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ben sentito, ciao. Avanti. Ciao, ciao, ma secondo me ti sei abbassato il segnale? Mi sei già andato. Strano. Ce ne trovo, non so io, è passato un po' di tempo già. Poi c'è un bullone grosso, un bel grosso luna, c'aveva, mi pare che era di... era di Gucci. Sapete cosa ho, cosa mi cognato domani, come si è messo adesso. Antonio, me ne sto andando, dai, ti saluto che è già tardi, ci porto giù a casa. Sì, ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ecco, 1, 2, 3, prova, chi è che c'è con la porta, avanti. Ma chi sei tu? Sì, Vanino. Avanti, chi è che vuole entrare?